Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti. In questa puntata spazieremo dall'America all'Iran, dal Canada alla Germania, passando per la Cina. Ma sentiamo subito in dettaglio di che cosa abbiamo scelto di parlarvi nella nostra finestra sulla cultura internazionale. America. Donne e matematica. Un binomio irrisolto. Germania. Basta con le teorie femministe. È in uscita un'antologia maschile dal titolo Movimento di liberazione per i maschi. Inghilterra. Lo scandalo delle spese parlamentari in versi. Anne Duffy scrive la sua prima poesia. Cina. L'ossessione dei giovani cinesi non è la democrazia, ma riuscire a passare il test per andare al college. Iran. Le autorità inglesi negano a Kiarostami l'ingresso nel paese per paura che chieda lo status di rifugiato. Canada. Il potere delle celebrità nella nostra società. Storia di un fenomeno che dura da un secolo. Un recente studio condotto da due ricercatrici presso l'Università del Wisconsin indaga sui motivi per cui nell'ambito della matematica ci siano poche donne e si distinguano o si applichino alla materia. È una questione di capacità o è un problema culturale, di educazione o di orientamento scolastico? Partendo da queste domande, Janet Hyde e Janet Merz hanno scandagliato le possibili ragioni dell'esigua presenza femminile nel campo della matematica. Premettiamo che alla fine del XIX secolo gli scienziati avevano cominciato a porsi delle domande, come se c'era differenza sul modo di ragionare e in generale sulle differenze riguardo le capacità intellettuali degli uomini e delle donne. Allora si arrivò a una rapida conclusione: il fatto che il cervello delle donne fosse materialmente più piccolo di quello degli uomini rendeva le loro capacità più limitate. Per fortuna questo pregiudizio è stato sventato con i fatti ed è stato coralmente riconosciuto che le performance femminili sono uguali o superiori a quelle maschili. Consolidata questa verità, ci sono però alcuni lati oscuri, soprattutto nel campo della scienza, in cui apparentemente gli uomini hanno la meglio. E questo è il caso della matematica. Per esempio, nella Fondazione per la Scienza e la Matematica di Parigi, un importante polo di ricerca in cui sono raggruppati laboratori e studiano moltissimi seri ricercatori di matematica, le donne sono meno del 20%. Nello studio, Hyde e Merz hanno analizzato le prove di valutazione di 3 milioni di persone nella scuola primaria e secondaria e hanno realizzato che non esiste differenza tra ragazze e ragazzi. Le capacità intellettive sono le stesse e, scendendo nel dettaglio, le due ricercatrici hanno messo in rilievo come le donne all'inizio sono leggermente avvantaggiate nel calcolo, vantaggio che poi però scompare più tardi. Non hanno trovato nessuna diversità per quanto concerne la comprensione dei concetti astratti o la risoluzione dei problemi complessi, ma una differenza viene a galla alla fine del corso scolare. I ragazzi prevalgono nel campo matematico nel momento dell'orientamento, quando devono scegliere la scuola superiore. Sono molte meno le ragazze rispetto ai ragazzi che decidono di proseguire le cosiddette scienze difficili come la matematica, per cui molte ragazze sono portate, hanno buoni voti in matematica, ma poi scelgono di non continuare gli studi. Questa è la prima ragione che può spiegare l'esiguo numero delle donne impegnate nella scienza matematica. E per capire se il bernoccolo della matematica sia una dote maschile, le due ricercatrici hanno approfondito lo studio, ma non c'è stata una risposta chiara. Si varia molto in relazione al paese, all'epoca, al gruppo socioculturale di appartenenza. E ancora una volta l'influenza socioculturale sembra fondamentale. Ma cerchiamo di capire il perché di questo fenomeno. Abbiamo in linea Patrizia Caraveo dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, che recentemente è stata insignita del Premio Nazionale Presidente della Repubblica. Ben trovata, Patrizia Caraveo. Grazie. Ecco, premesso dunque che le donne hanno le stesse capacità degli uomini, è una questione di centri di interesse o una questione socioculturale questa esigua presenza delle donne nel campo della matematica? Io penso che sia una questione socioculturale e devo dire onestamente che io mi ricordo che quando andavo all'università, quindi purtroppo qualche anno fa, i miei colleghi fisici, dicevano sempre che era una buona abitudine andare a fare un giro intorno all'istituto di matematica, perché perlomeno a Milano, quando studiavo io, all'istituto di matematica c'era una consistente presenza, per non dire una maggioranza, di studentesse. Quindi sono un po' confusa da quello che voi mi dite, da questo studio. È vero che poi molte delle ragazze che studiano e prendono la laurea in matematica magari non diventano delle matematiche professioniste, ma magari si dedicano all'insegnamento. Questa è sicuramente una possibilità, ma a meno che la situazione non sia cambiata radicalmente in questi ultimi anni, non c'era un deficit così drammatico nella matematica. Se lei mi parlasse di ingegneria, è vero, c'era un deficit che sta piano piano risalendo. Fisica sicuramente eravamo intorno al 30% e magari adesso saranno qualcosa di più, ma saranno più o meno stabili. Onestamente non ho avuto il tempo materiale di andare a vedere le immatricolazioni in matematica per vedere se c'è una decrescita di interesse in questi ultimi anni. Però mi conferma che nessuna donna si è ancora aggiudicata la medaglia Fields, che è una specie di Nobel della matematica. Temo che questo sia giusto, ma questo qui ha n più 1 ragioni, cioè sicuramente se ci sono meno donne in un campo è meno probabile che prendano i premi. C'è anche una sgradevole correlazione tra chi fa parte dei comitati che decidono questi premi, in particolare il sesso delle persone e il sesso delle persone che vengono scelte. Cioè, se in un comitato siedono anche delle donne, è più probabile che tra i vincitori ci siano delle donne. Se in un comitato ci sono solo uomini, non per cattiva volontà, ma fondamentalmente perché la gente fa riferimento sempre al gruppo di persone con le quali lavora, con le quali ha studiato, con le quali ha dei rapporti, e quindi c'è una selezione più o meno involontaria. Ecco, nel suo percorso, visto che eravate più o meno il 30% le donne che frequentavano fisica, ha avuto difficoltà dovute anche al fatto di essere una donna? Non particolarmente, cioè le difficoltà per diventare ricercatori sono uguali per gli uomini e per le donne. Sicuramente bisogna essere pronti a viaggiare, ad accettare di stare all'estero per periodi anche lunghi, ma in questo le donne lo possono fare tanto bene quanto gli uomini. Il fatto che poi subentrino maternità, secondo lei, in qualche modo le svantaggia? Questo è sempre un problema molto difficile, nel senso che conosco colleghe che hanno deciso di non avere figli proprio per potersi dedicare interamente al lavoro, e altrettante che invece i figli li hanno avuti e hanno cercato di organizzarsi. Io ho avuto una figlia e sono felicissima di averlo fatto. Quindi varia criticamente da persona a persona, da ambiente ad ambiente, chiaramente. Ecco, lei prima parlava di viaggi, c'è una differenza tra Italia e all'estero in questo campo? No, devo dire che l'Italia non è per niente male. Quando ho iniziato io a fare, diciamo, la scienziata, tra virgolette, le uniche donne che trovavo nei gruppi di lavoro ai quali io partecipavo erano fondamentalmente italiane e francesi. Dopo hanno cominciato ad arrivare le americane, perché c'è stato da parte degli Stati Uniti un grossissimo sforzo per aumentare la presenza delle donne nella scienza. E ad esempio ci sono sempre pochissime tedesche, per dare un'idea. Beh, per una volta allora non siamo rimasti indietro. Grazie a Patrizia Caraveo e a risentirci. Grazie a voi. Invece ora passiamo in Germania, dove la vicenda, per così dire, sessista si ribalta. Discriminati dal sessismo imperante e soggiogati dal sesso debole. Così si sentono infatti alcuni studiosi tedeschi che hanno pubblicato un'antologia di saggi maschilisti dal titolo Movimento di liberazione per i maschi. I due curatori dell'opera, Paul Hermann Grüner e Eckhard Kula, più che pubblicisti sono degli attivisti. Chiedono attraverso la loro opera una vera democrazia dei sessi e nel loro volume pretendono la fine del monologo sessuale femminile. Lanciano l'idea di una lotta per una rappresentanza più offensiva degli interessi maschili. Tra i numerosi saggi contenuti nel libro, edito dalla Psychosocial Verlag, vi sono attacchi alle teorie del gender e allo Stato, che userebbe la scusa delle pari opportunità per privare i maschi della libertà di azione. E ora in Inghilterra, perché la nuova poetessa di Stato inglese, Carole Ann Duffy, ha prodotto la sua prima poesia di Stato e lo ha fatto inveendo sullo scandalo delle spese parlamentari ed esortando i parlamentari ad avere la schiena dritta. Carole Ann Duffy, 53 anni, si chiama così appunto la poetessa di Stato, è la prima donna ad ottenere questo titolo dopo 341 anni. Il primo poeta a essere laureato era stato John Dryden, laureato da Carlo II. Carole Ann Duffy è stata invece insignita da questo titolo da Elisabetta II. È un grande giorno per le donne che scrivono, questo dimostra che le letterate hanno cambiato il panorama della letteratura in questo paese. 10 anni fa ci aveva pensato anche Tony Blair a insignirla di questo titolo, ma siccome la Duffy è dichiaratamente lesbica, Blair aveva avuto paura di cosa avrebbe pensato la classe media inglese, notizia che è stata subito dopo smentita dal suo staff. Comunque in Inghilterra continuano a dimettersi politici per gli scandali delle spese private con i soldi dei contribuenti. E solo giovedì è caduto un sottosegretario. La più eclatante è stata la dimissione del ministro degli interni Jackie Smith, il cui marito si era fatto rimborsare con i soldi dei contribuenti cassette porno scaricate da internet. Ma ora passiamo alla poesia, che recita correttezza, correttezza, correttezza, politici, politici, politici, scrivendo queste parole a lettere maiuscole per ricordare il ruolo pubblico e di esempio che ricoprono. Chissà cosa avrebbe da dire il nostro poeta di Stato qualora ci fosse. Se volete leggervi la poesia, andate sul sito del Guardian, www.guardian.co.uk, e nelle parole chiave digitate Carole Ann Duffy. La finestra sul cortile. E ora andiamo in Cina per parlare non di democrazia a 20 anni da Tiananmen, non di delocalizzazione, non di inquinamento, ma parliamo di studio. La vera ossessione dei giovani cinesi è il test d'ingresso all'università, un passaporto per una vita migliore. Ma sono in molti, in troppi, a volere questo passaporto per il futuro, sono addirittura 10 milioni. 9 ore di test che ha luogo una volta all'anno, lo chiamano Gaokao, riferendosi a un antico gioco d'azzardo che corrisponde più o meno alla nostra roulette. Le famiglie caricano questa prova di grandissimo significato. Per esempio, nella provincia di Sichuan, i genitori fanno studiare i ragazzi in ospedale, attaccati alle bombole d'ossigeno, nella speranza che l'ossigeno aiuti la concentrazione. Alcune ragazze addirittura assumono contraccettivi in modo da guidare il ciclo affinché non cada proprio il giorno dell'esame. E le promesse poi di zii, nonni, genitori sono mirabilanti. Per esempio, promettono feste, soldi, viaggi, auto di grossa cilindrata, basta che riescano ad entrare nelle migliori università. Fuori dalla sede d'esame poi stazionano capannelli di genitori e parenti ansiosi di sapere com'è andata, e non soltanto questo, ma cercano tutte le gabole per far entrare i propri figli. Per esempio, l'anno scorso ne sono state scoperte almeno 2500. Un gruppo di genitori ad esempio aveva corrotto un insegnante subito dopo l'apertura delle buste con le domande. Questo insegnante aveva faxato ai genitori le domande, loro hanno preparato le risposte e le mandavano via SMS ai figli che stavano facendo l'esame, con cellulari chiaramente nascosti. Non si può arrivare in ritardo, un minuto penalizza e quindi non si può più rientrare. Tutto questo dimostrerebbe però che ci sono delle falle nel sistema educativo cinese, che si basa su un sistema mnemonico e non creativo. In più, i ragazzi che vivono in campagna sono nettamente svantaggiati dai metodi educativi che non facilitano ma inibiscono la creatività. Però la grande richiesta comunque ha fatto più che raddoppiare il numero delle università. Oggi in Cina ci sono 1900 istituti, il doppio del 2000, e gli studenti sono 19 milioni. Ma ci può raccontare di più e meglio Ilaria Maria Sala, sinologa, collegata con noi da Hong Kong, dove vive, autrice de Il Dio dell'Asia, religione politica in Oriente, edito dal Saggiatore nel 2006. Ben trovata Ilaria Maria Sala. Eccoci qua. Ecco, allora, i giovani cinesi hanno veramente un'ossessione per l'università, per questi test d'ingresso? Decisamente sì, anche se è un'ossessione che è largamente spinta dai genitori, dalle famiglie, che mettono moltissima pressione su questo. In particolar modo, fino a qualche tempo fa, la laurea era una garanzia di trovare lavoro, un lavoro di un livello migliore che non nelle fabbriche o nelle campagne, per cui la pressione era enorme. Ora però, come notavi prima, ci sono moltissimi istituti superiori, quasi 19.000, molti di questi sono di scarsa qualità, sono stati improvvisati negli ultimi tempi, per cui si assiste oggi a un'incertezza rispetto a questa capacità di trovare automaticamente un lavoro essendo laureati. Quindi la laurea non cambia veramente la vita ormai? In parte sì, non si può essere troppo assolutisti mai con la Cina, in parte certo che sì, se non la si ha si parte comunque un po' svantaggiati. Se però si ha una laurea in lingua inglese ottenuta da un istituto creato da pochi anni, che non ha nessun credito, diciamo, nessuna storia, e che magari è un istituto di medicina cinese oppure un istituto di un'altra materia che non ha nulla a che vedere con l'inglese, è chiaro che ci si deve arrabattare molto di più per trovare un impiego. Chiunque esca però dagli atenei più conosciuti, che sono quelli che si trovano a Pechino, a Shanghai, a Guangzhou e in alcune altre grandi città, può dirsi piuttosto ben protetto, ben partito. Il problema rimane però che anche in questi atenei così famosi c'è un certo livello di corruzione, per cui in alcuni casi sono i soliti da sfondare, quelli che riescono effettivamente a farcela, in molti altri casi naturalmente no. Sono molti i ragazzi che tentano di andare a studiare all'estero? Sono moltissimi. Anche se, di nuovo, la Cina ha una, per molte cose, una mentalità abbastanza gerarchica, per cui anche lì ci sono una serie di atenei che sono considerati migliori di altri, per cui nulla vale tanto quanto una laurea americana. Quelle europee sono considerate di livello inferiore, a parte forse qualche università inglese molto nota, quelle australiane vengono dopo e poi tutte le altre, per cui ci sono molti professori americani che raccontano spesso aneddoti, a volte buffi, a volte invece un po' meno, di studenti che si presentano con tutte le carte un po' inventate, per cui con dei finti esami di inglese sorpassati, con molte, oppure invece in altri casi in Cina, di persone che si ritrovano dei finti laureati di fittizie università americane, che cercano dunque di ottenere lavoro in questo modo. Ecco, questo accade purtroppo anche in Italia. Ma lei, che da tanto tempo vive lì, come giudica il sistema educativo cinese? È vero che è molto mnemonico? Il sistema educativo cinese in alcune materie è senz'altro ottimo. Tutto quello che riguarda la preparazione tecnica, che riguarda la preparazione appunto, che richiede una buona capacità di memorizzazione, ma anche una buona capacità di padroneggiare alcune specialità, come possono essere in campo artistico, non tanto creativo quanto appunto la tecnica, la capacità di assimilare assimilare alcuni modi di fare le cose. Per quello che riguarda invece la questione di poter liberare idee nuove, poter favorire lo sviluppo intellettuale o favorire appunto la creatività, a parte una manciata di istituti, questo comincia ad essere uno dei grossi problemi dell'educazione in Cina, proprio per la fortissima enfasi sulla memorizzazione e anche un'enfasi totale sugli esami. Grazie allora a Ilaria Maria Sala per la competenza e ci risentiremo, magari ci darà più avanti notizie su come evolve il sistema educativo cinese. Arrivederci. E ora in Iran per parlare non del voto di Ahmadinejad ma del regista Abbas Kiarostami, 69 anni, vincitore della Palma d'Oro di Cannes nel 97 con Il sapore della ciliegia. Rimasto nel suo paese anche dopo la rivoluzione islamica del 79, nonostante la sua opposizione, anche dopo i terremoti che sconvolsero il nord del paese, dove girò alcuni documentari e film, ha dato segni di volere stare chiaramente vicino al suo popolo e nel suo paese. Eppure si è visto richiedere una dichiarazione formale dall'ufficio inglese dell'immigrazione, dovendo recarsi a Londra, di non chiedere lo stato di rifugiato politico. Il regista iraniano sarebbe dovuto andare a Londra per dirigere la produzione di Così fan tutte all'English National Opera e ha rifiutato chiaramente. Nonostante poi siano arrivate delle scuse tardive, ha deciso di spiegare che non c'è uno spazio libero nel suo passaporto, ha viaggiato ovunque in qualunque periodo e non ha mai pensato di lasciare il suo paese, per cui un'idea di voler chiedere lo stato di rifugiato in Inghilterra non gli è mai passata per la mente, si è sentito offeso e ha deciso di rifiutare la direzione. A Parigi lo hanno accolto con i tappeti rossi e quindi 1-0 Parigi-Londra. Il fascino delle celebrità, il desiderio di imitare le star e di avere accessori che indossano, di atteggiarsi come loro, non è un fenomeno degli ultimi tempi. Oggi siamo solo in più informati, ce lo racconta un libro di Marlies Schweitzer, Quando Broadway era uno svincolo, potremmo tradurlo, ma diamo il titolo originale, When Broadway was the runaway theater fashion and American culture, lo traducete voi come volete, e l'autrice canadese analizza gli anni che vanno dal 1893 al 1919, quando la moda del teatro americano si stava trasformando in una vera e propria industria. E nasceva la moderna era dei consumi e lo shopping per piacere. Il libro della Schweitzer inizia con un aneddoto del 1908, quando un manager teatrale di New York pensò al modo di far arrivare più pubblico possibile allo show La Vedova Allegra. Allora escogitò lo stratagemma per cui ogni donna che assisteva all'opera, ad ogni donna veniva distribuita una copia dell'edizione limitata dell'omonimo libretto. Il risultato fu che fuori dal teatro ci furono disordini e purtroppo addirittura ceffoni tra le spettatrici che cercavano di accaparrarsi il libretto. Lo stesso giochetto si fece molti anni più tardi con Jesus Christ Superstar e tutto questo accadeva, come abbiamo detto, negli anni 20, ma poi accadeva anche durante la guerra, che nonostante le ristrettezze economiche le donne facevano di tutto per imitare lo stile delle attrici. Così fa poca impressione alla Schweitzer il blog di Gwyneth Paltrow, in cui l'attrice consiglia o pontifica, secondo le male lingue, dal suo sito Goop, che è cliccatissimo, spiegando cosa sia il lifestyle, quale sia la dieta giusta, che cosa devono leggere le fans. Insomma, le star di oggi non hanno inventato niente di nuovo e noi siamo soggetti, come un secolo fa, alle loro geniali o futili manie. Il nostro sguardo sulla cultura internazionale per questa settimana finisce qui. Un saluto da Cristina Battocletti, un ringraziamento in particolare al lavoro di Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione e a Giorgio Mattè in regia. La finestra sul cortile torna la prossima settimana. Buon weekend e a risentirci.